Ringrazio la Fondazione di avermi dato questo incarico, spero di essere all'altezza. Allora, il tema che io devo trattare è, partendo dalle edizioni di Bodin e di Hobbes, questa qui è la seconda edizione, quella del 1578, invece questa di Bodin, i sei libri, les six livres de la République. E questa invece è la prima edizione del Leviathan. È importante chiarire che si tratta di République e non di Stato, come viene tradotto in italiano, perché questo, cioè, insomma, cercherò di spiegarlo, fa molta differenza. Quindi il tema è, come dire, la modernità di questi due autori rispetto alla costruzione dello Stato moderno. Soprattutto attraverso il dispositivo della sovranità intesa come sovranità assoluta. Ecco, io vorrei fare una premessa, come dire, di carattere un po' metodologico-storiografico. Solitamente, diciamo, Bodin viene letto pensando ad Hobbes, cioè si fa una lettura hobbesiana di Bodin. Sono due autori non lontanissimi tra di loro cronologicamente. Bodin appartiene alla seconda metà del Cinquecento, Hobbes invece è un autore del Seicento. Tra di loro, in realtà, oltre, diciamo, al filo comune che li lega, che è la costruzione di questa teoria moderna del sovrano e della sovranità, sono due autori molto lontani tra di loro, molto distanti tra di loro. E quindi io, più che fare una lettura hobbesiana di Bodin, vorrei fare una lettura, semmai vorrei fare paradossalmente una lettura bodiniana di Bodin e bodiniana di Hobbes. Mentre Bodin, come dire, è ancora un uomo del Medioevo, del pensiero cristiano medievale, di una teologia e teleologia che ha le sue radici in Aristotele e in tutto quel, diciamo, quella concezione di Dio, del mondo, della natura, che trova per esempio in Tommaso d'Aquino la sua sistemazione più, insomma, più autorevole. E quindi la sua idea dello Stato e della sovranità, la sua città politica è, diciamo, sostanzialmente e sistematicamente inserita in un contesto che è quello di un ordine della natura teleologicamente, finalisticamente orientato, dietro di cui esiste un'entità divina. Entità divina, sia pure non trascendente ma immanente. A proposito di Bodin si è parlato di metafisica panteista. Poi, tra l'altro, Bodin è un personaggio alquanto eclettico e anomalo, la cui formazione fondamentalmente giuridica però è molto composita. In Bodin abbiamo anche delle tendenze astrologiche. Bodin fa parte di tutta una tradizione cosiddetta dell'umanesimo giuridico, alle cui spalle abbiamo non soltanto l'umanesimo vero e proprio, ma tutta una tradizione giuridica di studio, recupero e commento del diritto romano, dai glossatori ai post-glossatori, ai legisti francesi e così via. Quindi Bodin porta con sé, diciamo, una cultura che profondamente, è intrinsecamente premoderna, medievale. Non solo, Bodin appartiene a una società che si può, insomma, semplificando, definire come una società cettuale, cioè una società di corpi. Hobbes è tutta un'altra cosa. Allora, scusate, Baudin quindi è interessante proprio per queste sue caratteristiche, dal punto di vista del percorso che porta alla modernità e a un'idea moderna dello Stato. Baudin è interessante proprio perché è immerso in questa realtà non moderna, ci fa capire il percorso attraverso cui da una società cettuale di corpi insomma, non dico che si arriva, perché Hobbes stesso poi è immerso in un mondo simile, ma si punta allo stato moderno in quanto stato di individui. Ecco, Hobbes, il discorso su Hobbes è tutta un'altra cosa. Hobbes, diciamo, non è, mentre Baudin fondamentalmente è un giurista e uno storico. Hobbes è un filosofo, è uno scienziato, forse, è comunque immerso nella cultura scientifica moderna, ha alle spalle i modelli della fisica di Galilei e su questo fonda la costruzione teorica dello Stato Leviatano e, come dire, procede, a differenza di Baudin, cioè mentre Baudin cerca dall'interno di una tradizione antica e consolidata di trovare una strada per la modernità, Hobbes affronta di petto tutta una tradizione di cui fa parte la scolastica, la metafisica, qualsiasi idea teologica e teleologica del mondo. Tende sulla scorta di Galilei, della fisica di Galilei e delle leggi sul movimento di Galilei, a ridurre tutta la realtà, compresa quella dell'essere umano, a una dinamica di corpi in movimento. Hobbes esclude, diciamo, negando qualsiasi fondazione metafisica, esclude qualsiasi idea innata nell'essere umano e cerca di spiegare la formazione dei pensieri dell'uomo a partire dalla percezione sensoriale, no? Cioè i pensieri, è una questione estremamente complicata, ma insomma i pensieri di quell'uomo, che l'uomo è capace di elaborare, e il discorso di cui l'uomo è capace, lo speech che lo differenzierebbe, secondo Hobbes, dagli animali, è in origine soltanto il risultato di corpi esterni che hanno colpito i sensi dell'essere umano e poi di successivi movimenti di corpi interni al corpo dell'essere umano. È una teoria, credo, non scientifica. L'altro giorno qui si parlava di questo con Giorello e gli abbiamo chiesto delle spiegazioni e Giorello ha detto, sì, certo, Hobbes conosce, certo, aveva conosceva questi testi, aveva una preparazione scientifica, ma però, per esempio, non aveva tenuto conto dell'esistenza del vuoto. Questo ho trovato abbastanza. E poi Giorello ha detto sì, perché discutendo, insomma, incontrandosi con Boyle, e Boyle ha mostrato come si crea il vuoto con una macchina che con una pompa aspira l'aria e quindi quel vuoto. Ecco, Hobbes, diciamo, nella sua teoria che si presume scientifica, non aveva tenuto conto dell'esistenza del vuoto. Comunque, quello che a noi interessa è, diciamo, questa volontà di Hobbes di azzerare tutta una tradizione e di costruire teoricamente e artificialmente un'idea dell'uomo ridotto quasi a una macchina e l'idea, la realtà di uno Stato, dello Stato Leviatano, che a sua volta è una pura invenzione artificiale. Quindi, come dire, insomma, questi brevi accenni per sottolineare la distanza tra questi due autori. sicuramente hanno, come dire, dei punti in comune, oltre alle differenze. Direi che, grosso modo, i punti in comune sono l'interesse, anche emotivo, per la guerra, mi riferisco alla guerra civile, la guerra civile di religione della seconda metà del Cinquecento in Francia, le Six Livres de la République nella prima edizione escono nel 76, la strage della notte di San Bartolomeo del 72. La vicenda di Hobbes è simile. Hobbes è coinvolto nelle guerre civili, insomma è coinvolto in due rivoluzioni, è coinvolto nella prima rivoluzione inglese, è coinvolto anche lui in una situazione di collasso del potere dello Stato, è costretto ad andare in esilio, e quindi insomma l'opera di Hobbes è dominata dalla volontà di neutralizzare i guasti e i disastri della guerra civile. Ecco, a questo punto vorrei, per affrontare, insomma, cercare di farvi spiegare questa diversità e insieme vicinanza dei due autori, io ho fatto una scelta di molto breve di testi, che cercherò poi, un po' nel senso indicato prima da Gabriella Bonacchi, che cercherò di interpretare, leggere attraverso le righe e decifrare e darvi un po' il senso, ma anche un po' il sapore attraverso la lingua, del pensiero e dell'atteggiamento di questi autori. Prima vorrei dire due parole molto, insomma, rapide sulla sovranità. Su che cos'è la sovranità? Questo anche, pensando che magari molti di voi sono più, conoscono meglio il lato moderno della sovranità, conoscono meno il suo aspetto antico e medievale, e per capire insomma i passaggi. Allora, prima che attraverso Baudin e Hobbes si affermasse una teoria della sovranità assoluta, cioè l'idea di un sovrano dotato di poteri assoluti, la parola assoluto in Baudin viene dal latino absolutus, che a sua volta fa riferimento alla locuzione legibus solutus, cioè vuol dire sciolto dalle leggi. E cioè il sovrano di Baudin è, un sovrano che gode di poteri illimitati, limitati soltanto dalle leggi di natura, dalle leggi di Dio e dalle leggi fondamentali del regno, perché è legibus solutus, cioè è colui che è in grado, che è dotato della facoltà di fare la legge, e in questo suo fare la legge è sciolto da qualsiasi vincolo con tutte le leggi già esistenti, precedenti quel sovrano, ma è sciolto anche dalle leggi da lui stesso fatte. Questo è un po'... E insieme la sovranità di Baudin è, tutta una serie di requisiti, cioè deve essere innanzitutto la summa potestas, cioè deve incarnare un potere al di sopra del quale non può esservi nessun altro potere se non quello di Dio. Poi deve essere perpetuo, poi deve essere indivisibile e inalienabile. Ecco. E la sovranità del Leviatano di Hobbes è ancora di più legibus solutus, e addirittura, mentre la sovranità di Baudin è assoluta e limitata al tempo stesso, limitata dal diritto naturale, dal diritto consuetudinario, dalle leggi fondamentali del Regno di Francia, che imponevano per esempio la legge salica, cioè la successione in linea maschile da un sovrano all'altro, il sovrano del Leviatano, una volta costituito attraverso il patto sociale, è un sovrano che non può conoscere alcun limite, che può essere solo obbedito dai suoi cittadini sudditi, salvo l'unica possibilità che viene data, cioè che questo stesso sovrano, questo medesimo sovrano, metta in discussione la vita dei suoi cittadini, e cioè che non ottemperi allo scopo per cui è stato costituito, cioè l'autoconservazione dell'uomo e del genere umano. Ecco, tutto questo è molto diverso, cioè questa idea della sovranità, chiamiamola moderna, è agli antipodi di quell'idea della sovranità che era vigente nel corso del lungo Medioevo. La sovranità medievale, se insomma di sovranità si trattava, perché era una sovranità cosiddetta divisa, che non afferiva a un territorio preciso, che non aveva il controllo del territorio, che afferiva dei soggetti come la Chiesa, l'impero, il Papa, la cui caratteristica era quella di essere dei soggetti universali, quindi era un discorso un po' diverso, però diciamo si trattava comunque di una sovranità fortemente limitata. Si parla, nel caso di questo tipo di sovranità, si parla di monarchia a sovranità limitata, dove il limite fortissimo è costituito dalla legge di Dio, perché l'unico vero sovrano, secondo la formula paolina di Paolo, dell'apostolo Paolo, che diciamo poi attraverso Agostino nel corso del Medioevo diventa una sorta di dogma e di riferimento costante, secondo la formula nulla potestas nisi a Deo, non vi è potere se non da Dio, qualsiasi potere esistente in terra scende dall'alto verso il basso, cioè scende da Dio, e l'unico vero sovrano è Cristo Re. E Cristo Re, al limite il Papa in quanto vicario di Cristo in terra, oppure l'imperatore in quanto rappresentante antagonista, in quanto, se volete, vicario laico di Cristo in terra. Il percorso che porta, adesso insomma cerco di chiudere questa introduzione, il percorso che porta alla sovranità assoluta è, diciamo, conosce una serie di passaggi, è piuttosto complesso. Uno dei passaggi più importanti è costituito dal lavoro dei canonisti, cioè del diritto canonico, a partire dalla riforma gregoriana intorno dal 1000 al 1100, per arrivare fino al 1300-1400, in particolare a Bonifacio VIII con la bolla Unam Sanctam del 1300, si afferma il principio cosiddetto della plenitudo potestatis, cioè della pienezza dei poteri. Cioè i papi canonisti, i papi successivi alla riforma gregoriana, superando una diatriba che si è trascinata per il mondo antico e per il Medioevo, e cioè della rivalità e della concorrenza tra le due spade, la spada spirituale e la spada temporale, risolta, che poi ha avuto anche dei fenomeni di storia vera e propria, tipo la lotta per l'investitura, eccetera, eccetera. Tutto questo si risolve con la concentrazione nell'unico corpo sacro del pontefice delle due spade, la spada spirituale e la spada temporale. Il pontefice è detentore dell'auctoritas e può, per sua volontà, cedere l'esercizio del potere della spada temporale, in forma non più di auctoritas ma di potestas, a dei principi secolari. Tutto questo in base a una interpretazione che viene data di un passo dei Vangeli, dove Cristo dice a Pietro: tibi dabo claves, a te darò le chiavi e il potere di sciogliere e di legare, così in cielo come in terra, cioè che è l'investitura di quel nulla potestas nisi a Deo da Pietro, rappresentante di Cristo in terra, al pontefice. Ecco, su questo si è scatenata tutta una discussione sull'interpretazione di quel passo. Alcuni, i papisti, come insomma, li chiamavano gli inglesi dopo Enrico VIII, sostenevano che il vicario di Cristo in terra e il detentore di quella chiave era il pontefice di Roma, ma invece i conciliaristi, i protagonisti del movimento conciliare della fine del 300, dell'inizio del 400, che portarono nell'ambito di uno scisma gravissimo della Chiesa, un papa, un antipapa, tre papi, insomma una situazione caotica, il movimento conciliare sosteneva, interpretando diversamente quel passo, che il rappresentante di Cristo in terra non era affatto il papa, ma era il concilio. Era il concilio, per cui si è parlato in merito a questo movimento conciliare di una teoria della sovranità della comunità. E quindi, insomma, sono una di quelle, sono una di quelle situazioni nel pensiero dove, insomma, alla dominante concezione discendente della sovranità viene contrapposta una concezione cosiddetta ascendente della sovranità, di cui per esempio è esponente Marsilio da Padova, e di cui poi c'è tutta una tradizione, per esempio i monarcomachi che prima sono stati nominati, cioè i calvinisti rivoluzionari dell'epoca di Baudin. Ecco, niente, io con questa direi ecco, altre due parole. Ho preso troppo tempo? No, va bene. Va bene, che sono le sei. Ok, vai tranquillo. Altre due parole sulla, come dire, sovranità e limitata e insieme assoluta di Baudin, prima di affrontare il testo di Baudin. In contrapposizione con invece la concezione obesiana della sovranità. Allora, in questa teoria della sovranità di Baudin, i soggetti che costituiscono lo Stato, secondo un percorso che è aristotelicamente naturale, cioè si tratta, cioè non solo è secondo natura, cioè rispetta le leggi di natura, di un ordine della natura iscritto in un ordine del cosmo, ma è naturale nel senso che corrisponde a una, come insegnava Aristotele, corrisponde a una crescita naturale, dalla famiglia allo Stato. Quindi i corpi famiglia, vedremo poi di che famiglia si tratta, sono costitutivi dello Stato. E il sovrano di questo Stato, insomma, in prospettiva moderno, non è, diciamo, quella persona giuridica astratta che nasce attraverso il patto sociale di Hobbes, dove una moltitudine di uomini in carne ed ossa, contraenti del patto, per salvare la propria esistenza, si annullano come esseri reali e trasferiscono la loro identità e i loro diritti naturali di essere viventi, nella persona del Leviatano creato dal patto. Per cui una moltitudine di esseri, come dire, in guerra tra di loro, homo homini lupus, si trasforma attraverso una sorta di metamorfosi in un'unica persona. E questo del passaggio dal disordine all'ordine, questa della soluzione del problema della moltitudine, che è la fonte del disordine, quindi del conflitto e della guerra, è un vecchio problema che risale alla filosofia degli antichi e che Hobbes risolve col marchingegno del patto e col dispositivo della rappresentanza intesa in senso moderno. Ecco. Il sovrano di cui ci parla Baudin è, diciamo, innanzitutto un sovrano che regna ancora su una società di corpi, pur con tutte quelle sue caratteristiche moderne. E e insieme un sovrano, direi, storicamente determinato, dotato di un corpo, dotato di un corpo fisico, di un corpo fisico che a sua volta è coinvolto e legato dentro una rete di legami personali con tutta una serie di altri corpi. E uno per dei paradossi, queste sono delle cose che insomma, gli storici in genere, in particolare gli storici medievali, conoscono benissimo. Uno dei paradossi di questa epoca è che dunque, succedeva, credo ancora nel 400, prima di Baudin, ancora nel 400, quando lo stato unitario della monarchia francese era in formazione, che il legittimo re di Francia fosse al tempo stesso il sovrano supremo, nel senso in cui poi lo intenderà Baudin, e al tempo stesso il vassallo di altri signori feudali, magari più potenti di lui, come il famoso duca o granduca di Borgogna. Ecco, niente, io direi, volevo dare un'idea un po' della diversità e della specificità di questo mondo di Baudin prima di iniziare la lettura. Vabbè, qui... niente, tutte cose già dette. Allora, io prenderei il testo che voi avete. Qui ci vuole un po' di acqua, un po' di pazienza. Dunque, pagina... vabbè, prima abbiamo una copertina, vabbè, che è doverosa, perché non si capisce, chi legge non capisce con che cosa ha a che fare. Questa è la traduzione ufficiale in italiano dei sei libri della Repubblica, tradotto Stato. La parola e qui c'è una difficoltà reale, perché insomma io, per esempio, in quelle cose che ho scritto, ho spesso, invece di dire soltanto Stato, dico Stato Repubblica, perché insomma si capisca bene. Repubblica è importante perché nell'intento, nella mente di Baudin, la République è la Respubblica, come risulta dall'edizione latina, cioè rappresenta l'universo di ciò che è pubblico contrapposto all'universo di ciò che è privato, il diritto pubblico contrapposto al diritto privato. Una delle ragioni di interesse di questo testo, che non è avvincente e anche stilisticamente bello come spesso è il Leviatano di Hobbes, è che in questo testo, non solo per merito di Baudin, ma per merito di tutta una tradizione che sta alle sue spalle e che sta intorno a lui, noi vediamo il lessico della politica, lessico giuridico-politico del politico in formazione. Allora, se prendiamo la prima frase a pagina 159, innanzitutto il titolo, che è di per sé estremamente significativo, qual è il fine ultimo di uno Stato ben ordinato. Poi leggiamo la prima frase, che è l'incipit di un'opera di più di 1000 pagine, di un'opera che è concepita in quanto teoria dello Stato come un sistema dove tutte le parti devono stare insieme, non stanno insieme, questo però insomma, riguarda moltissimi autori, stanno insieme, non stanno insieme, in vista di un fine che è quello che è specificato nel titolo, e che è quello di uno Stato ben ordinato. Dove ben ordinato... per ben ordinato si intende non soltanto uno Stato in grado di imporre l'ordine e quindi neutralizzare i disastri della guerra civile, ma ben ordinato in quanto è parte di quell'ordine della natura in cui necessariamente si scrive la città politica e quindi rispetta le leggi di quell'ordine della natura, che sono l'espressione di leggi divine, di leggi cosmico-divine. La prima frase è veramente un sorprendente condensato di tutto ciò che poi verrà detto, anche in maniera prolissa, talvolta farraginosa, nel corso di più di 1000 pagine. Per cui il commento, la lettura tra le righe, la decifrazione di questa frase di 2 righe e mezzo potrebbe impiegare una serie di lezioni. Allora, questa frase, come la trattazione che segue, è improntata a, direi, se non a un metodo, ma a uno stile nettamente aristotelico. Cioè, l'idea è che, si debba iniziare la trattazione di una teoria dello Stato dalla definizione dello Stato e specificando, indicando quali sono le parti che costituiscono lo Stato e quali sono i nessi tra queste parti. Ciò che non è aristotelico, e su questo terreno Baudin, appunto, pur assumendo il metodo di Aristotele, si differenzia nettamente da Aristotele, è il rapporto tra le parti e il tutto. Adesso cercherò di essere brevissimo, non mi voglio troppo dilungare. Secondo Aristotele, secondo la visione aristotelica del rapporto tra la parte e il tutto, la parte è necessariamente costitutiva di un tutto che paradossalmente viene prima di quella parte. Un esempio molto chiaro che Aristotele fa, Aristotele dice la ghianda è parte della quercia, ma la quercia viene prima della ghianda, no? È apparentemente un paradosso, perché in realtà Aristotele vuol dire, se noi vogliamo dare una definizione corretta della natura della parte ghianda, noi dobbiamo conoscere la definizione del tutto quercia, che è l'esito finale di una crescita naturale che dalla ghianda porta alla quercia. Quindi, per capire che cos'è la ghianda, noi dobbiamo prima sapere che cos'è la quercia. Su questo rapporto tra parte e tutto, Baudin lo capovolge, lo mette in discussione e lo capovolge, a vantaggio della parte. E allora, mentre nella relazione tra uomo e Stato, uomo e polis, tra essere umano e polis, Aristotele è rigorosamente olistico, nel senso che ritiene che lo scopo dell'esistenza dell'essere umano e l'unica possibilità di esistenza per un essere umano è quella di vivere e realizzarsi nella polis, che soltanto così, soltanto in quel contesto e nell'ambito di quel rapporto un essere umano è un uomo, altrimenti assomiglierebbe di più, dice Aristotele, o a un dio o a una bestia, cioè quindi è fuori dal territorio della polis e dal consorzio umano. Il discorso di Baudin è un discorso dove invece la parte famiglia assume una sua autonomia e indipendenza rispetto al tutto Stato. E adesso poi, spero ci sia il tempo, si capirà meglio. Allora, le parti dello Stato di cui ci parla Baudin sono il governo giusto, innanzitutto, e il termine governo giusto è una parola concetto medievale, cristiano medievale, che fa riferimento ad Agostino, per esempio. Oggi nessuno direbbe che lo Stato-nazione è definibile come un governo giusto. Il governo è giusto perché se rispetta le leggi di natura, e le leggi divine. Le altre parti sono il potere sovrano, cioè la sovranità. Le altre parti sono le diverse famiglie, quella stessa moltitudine di cui poi parlerà Hobbes, ma che non sono più degli individui soggetti virtuali, degli individui in quanto secondo me soggetto virtuale, ma sono delle famiglie, intese come la famiglia allargata del mondo antico, la grande famiglia, quindi delle micro società autosufficienti, e l'altra parte è ciò che esse hanno in comune fra di loro. Io adesso per passerei, adesso potrei spiegarvi che cos'è il governo giusto, preferirei passare oltre e cercare di spiegare questa definizione dello Stato leggendo un ulteriore brano che tra l'altro è uno dei pochi brani dei Six Livres de la République che sono suggestivi, hanno una loro bellezza anche di immagine. E passiamo al capitolo sesto del libro primo, pagina 265. Dunque, questo testo e ciò di cui si parla in questo testo è abbastanza, anomalo e fuori contesto teorico rispetto al pensiero di Baudin, perché Baudin non si occupa e non si interessa normalmente del problema, a differenza dei giusnaturalisti moderni, Hobbes in testa, non si occupa del problema dell'origine dello Stato e della formazione dello Stato. Dà per scontato che lo Stato esiste, che gli uomini non possano che stare insieme sotto e nell'ambito di un dispositivo della sovranità dove c'è qualcuno che comanda e qualcun altro che obbedisce, e quindi si pone il problema non di come questo dispositivo della sovranità è nato e quindi in qualche modo di legittimarne l'esistenza, ma si pone piuttosto il problema di spiegare come può ben funzionare e quali sono le regole che lo fanno ben funzionare. L'immagine a cui Baudin ricorre, che riprende da Platone, che è assai suggestiva, è quella della nave e del suo comandante. Questa è una metafora ricorrente, cioè la società e o lo Stato sono una nave. Ciò che tiene insieme, ecco qui torna il discorso del rapporto tra le parti e il tutto, ciò che si tiene insieme le parti della nave, che altrimenti non sarebbero una nave, le varie parti della nave, la prua, la poppa, l'albero, le vele, se mi ricordo l'esempio che fa Baudin, è la chiglia, è la chiglia che tiene tutto insieme, e la chiglia per Baudin è l'equivalente della sovranità, che quindi tiene insieme le parti della nave, la nave è la società e lo Stato. Questa maniera dello stare insieme degli esseri umani, questa espressione dello stare insieme degli esseri umani non è un'espressione che a me piace molto, che utilizzo, ma proviene da Hannah Arendt, che ne parla in riferimento allo spazio della polis. Questo tipo di dispositivo della sovranità, dove c'è qualcuno che comanda e qualcun altro che obbedisce, è caratterizzato da una necessaria naturalità di ciò che accade, così come è naturale che un comandante di una nave abbia un potere assoluto di comando sui membri dell'equipaggio di quella nave, perché altrimenti la nave non può navigare e al limite affonda. Guardate, ho perso il filo. Cosa sto parlando? Della chiglia della sovranità, no, come prima, chiglia della nave. Prima, adesso lo ritrovo. Dicevo allora che in questo brano, il Baudin, l'argomento di cui Baudin che ci parla è, diciamo, un po' fuori dalle righe rispetto alla sua teoria dello Stato, perché riguarda invece proprio l'origine dello Stato. E si profila un obesianamente, e qui Baudin, diciamo, non è che alluda a Hobbes, perché Hobbes ancora non esisteva, ma insomma prepara un discorso obesiano, e Baudin ci parla di una sorta di stato di natura dove i capi di famiglia sono in conflitto tra di loro, si fanno la guerra, dove questa guerra si risolve con la vittoria di uno o di alcuni capi famiglia sugli altri, e così si costituisce attraverso la violenza lo Stato. Lo Stato e nasce un sovrano. E questa, diciamo, questa modalità di formazione dello Stato è esattamente quella di cui ci parla Hobbes, e che Hobbes definisce come Stato per acquisizione, in alternativa allo Stato che nasce dalla convenzione del patto. Ecco, quindi in questo brano si parla, diciamo, della nascita dello Stato nell'ambito di una sorta di stato di natura. Inoltre, in questo brano ci viene spiegato attraverso una immagine assai suggestiva come dall'interno di questa società cettuale di famiglie governati da capi famiglia si crea una sovranità di uno spazio pubblico, di un sovrano che prima non esisteva, attraverso il semplice movimento di capi famiglia che a un certo punto escono, dice Baudin, escono di casa ed entrano in città. Allora, la casa famiglia, non solo per Baudin, ma per, diciamo, la mentalità, diciamo, medievale, per semplificare, è un microcosmo, è una microsocietà. È fatta non di tre persone, ma anche di centinaia di persone. È una microsocietà autosufficiente, dove, direbbe Aristotele, si è in grado di provvedere non ad una vita felice, ma sicuramente ad una vita sufficiente. Ma, e qui torniamo alla definizione dell'incipit, queste famiglie, anche se non sono in guerra tra di loro, anche se non finiscono col farsi la guerra tra di loro, necessariamente devono mettere in comune qualche cosa, e cioè tutta una serie di funzioni, di servizi, le strade, i ponti, un tesoro pubblico, la difesa comune, eccetera, eccetera. E allora, i capi famiglia che escono di casa ed entrano in città, uscendo di casa ed entrando in città, quindi passando dalla dimensione privata, si potrebbe dire, del diritto privato di ciascuna famiglia a quello del diritto pubblico dello Stato in formazione, rinunciano, si spogliano delle loro prerogative naturali di sovrani assoluti nell'ambito delle rispettive famiglie, e si sottomettono a un sovrano comune, accettando una legge che è la stessa per tutti. Quindi questo uscire di casa ed entrare in città è anche il passaggio attraverso dei soggetti che sono i capi famiglia, che hanno una doppia identità, quindi che conservano l'identità di capi famiglia, ma assumono la nuova identità di cittadini sudditi, dice Baudin, tutti ugualmente soggetti al medesimo sovrano, escono di casa ed entrano in città. Scusate, ho perso il film. Vi voglio leggere, ve leggo leggere insieme a voi alcuni brani. Allora, andiamo nella seconda parte, ultimo capoverso. Dice, prima che esistessero fra gli uomini città, cittadini e stati di sorta, il capo di ciascuna famiglia era padrone nella sua casa e aveva potere di vita e di morte sulla moglie e sui suoi figli. Quindi qui quella che l'ipotesi che Baudin fa è che esista una sorta di società senza Stato, dove non esiste il comando, la coercizione di un uomo su altri uomini, no? Non esistono città e non esistono stati di sorta. Sulle donne, sì. Vabbè, qui se tu leggi il capitolo sul potere maritale, sì. Lo leggi bene, ti vengono i brividi, sì. Ma anche se leggi Aristotele. Sì, sì, no. Lo sai cosa dice Aristotele sulle donne? Sì, sì. Che sono equivalenti al bue, sì, allo schiavo, sì, sì. E al bue, perché sono capaci soltanto di erogare energia. Sì, sì. Quindi sai anche la Pasquinelli. Ecco. Segue poi, la guerra, che è molto simile al bellum omnium contra omnes di cui ci parla Hobbes, no? Ma dice, ma poi la forza, la violenza, l'ambizione, ebbero armati gli uni contro gli altri. Qual è l'esito della guerra? Un vincitore che riduce in servitù gli altri. E però l'esito di questa vittoria è la creazione di uno Stato dove esiste il sovrano. Allora, pagina 266, secondo capoverso, allora la libertà piena e totale che fino allora ciascuno aveva goduto di poter vincere a suo arbitrio, senza sottostare all'altrui comando, si mutò in servitù, eccetera, eccetera. Così entrarono nell'uso le parole fino ad allora sconosciute di signore, servo del principe, suddito. Ecco, questo è lo stato di natura da cui nasce lo Stato come soluzione della guerra e come vittoria di un capo famiglia sugli altri capi famiglia. Leggiamo brevemente nella parte iniziale della pagina, qui non vedo il numero, 265, l'inizio. Prima si sottolinea la totale indipendenza e autosufficienza della famiglia rispetto allo Stato. E quindi questo è quel discorso che abbiamo fatto prima di un capovolgimento del rapporto aristotelico tra la parte e tutto. La parte famiglia è del tutto autosufficiente e dice Baudin, come le fondamenta possono esistere senza che ancora sia formata la casa, la famiglia può sussistere da sola senza città né Stato e il capo della famiglia può esercitare la sovranità sui suoi senza dipendere da nessuno fuorché da Dio, eccetera, eccetera. Invece lo Stato non può sussistere senza famiglie, come la città non può sussistere senza case, nelle case senza fondamenta. Mi sembra molto chiaro. E poi arriva il brano dell'uscire e dell'entrare. Quando però il capo della famiglia esce dall'ambito della casa in cui comanda per trattare e negoziare coi capi delle altre famiglie di ciò che riguarda l'interesse comune, si spoglia del titolo di padrone, capo e signore per divenire semplice compagno ed uguale degli altri e membro della loro società. E invece che signore, all'atto di lasciare la famiglia per entrare nella città e gli affari domestici per trattare i pubblici, comincia a chiamarsi cittadino, parola che in termini precisi significa suddito libero che dipende dalla sovranità altrui. Ecco, non so se io mi pare di aver già detto abbastanza su questo brano. Qui è molto chiaro in questo uscir di casa per entrare in città il passaggio e la separazione tra la dimensione di un diritto privato e la nascita di un diritto pubblico che interessa E qui, come dice, cioè c'è una contraddizione tra gli affari domestici e gli affari pubblici, che interessa quindi ciò che viene messo in comune. Che punto è? Il tempo si è... No, no, se volevi leggere qualcosa di Hobbes come... Sì, più che leggere, sì, volevo dare un'idea per contrapposizione. Sì, esatto. Allora, spero che da quanto si è detto finora sia emersa, come dire, la specificità premoderna di Baudin e della sua idea della sovranità e dello Stato che affonda, che ancora è immersa in una società di corpi. I corpi sono le famiglie, perché poi questi capi famiglia che assumono l'identità di cittadini sudditi continuano a restare capi famiglia e quindi sono, certo, si sottopongono alla legge comune del nuovo sovrano pubblico, ma al tempo stesso sono i rappresentanti delle rispettive famiglie e di tutti gli interessi legati alla famiglia. E questo significa non solo che la famiglia, le famiglie sono costitutive della formazione dello Stato, ma che i valori delle famiglie e quindi tutto quel diritto consuetudinario che riguarda la proprietà, che è legato a ciascuna famiglia, informa e determina lo scopo dell'esistenza dello Stato, della dimensione pubblica. Ovviamente insomma, le letture che si possono fare di uno stesso testo sono sempre plurali, insomma questa è la lettura che faccio, insomma, faccio io. Allora, scorriamo il testo del Leviatano molto rapidamente, ovviamente. Io dunque, pagina 5, l'inizio dell'introduzione, che qui ovviamente non c'è il tempo di leggere, voglio solo sottolineare in contrapposizione con Baudin e con la sua concezione teleologicamente naturale dell'uomo e del mondo, la totale artificialità e convenzionalità del pensiero di Hobbes, cioè qui c'è proprio un progetto da parte di Hobbes, no? Di inventare un mondo che riguarda l'essere umano e riguarda uno Stato che, come dice il frontespizio del libro, è un grande uomo costituito da tanti piccoli uomini, ebbene tutto ciò è artificiale. Ed è artificiale nella misura in cui l'uomo, che è dotato dello spirito, eccetera, con l'arte legata alla sua ragione, imita la natura. E quindi la natura, ossia... L'incipit, no? Dell'introduzione. Sì, dice Hobbes, è proprio l'inizio, la natura, ossia l'arte per mezzo della quale Dio ha fatto e governa il mondo. Su questo ci sarebbe moltissimo da dire, su questo che sta tra due virgole. È ovvio che poi Hobbes, per quanto fosse materialista e per quanto pensasse che riguarda l'universo, che tutto è materia, all is matter, quindi insomma Dio non era previsto, anche se poi nella concezione hobbesiana della politica, come per Machiavelli del resto, è previsto che ci sia una religione, che è previsto, si pensa che la religione sia utile, cose di questo tipo. Ecco, la natura viene imitata dall'arte dell'uomo, e questa arte dell'uomo che imita la natura concepisce l'uomo come una macchina, fatta di pezzi, montabili, smontabili. I pensieri dell'uomo non sono il frutto di idee innate o di un'anima. Per Hobbes il concetto di anima, così come lo intende la scolastica, sono nonsense, cose prive di senso, ma i pensieri, come pare aver già detto, sono il risultato di ciò che rimane, non si sa se nella testa o nel cuore, delle percezioni sensoriali, e soprattutto il Leviatano, lo Stato del Leviatano è una grande costruzione artificiale Prendiamo, eccola, metà più o meno, l'arte si spinge anche più avanti attraverso l'imitazione di quel prodotto razionale che è l'opera più eccellente della natura, dell'uomo, dell'uomo che imita la natura, si intende qui, l'uomo, della natura, l'uomo, benissimo. Viene infatti creato dall'arte quel grande Leviatano chiamato Repubblica o Stato, in latino Civitas, che non è altro che un uomo artificiale, eccetera, eccetera. Passiamo, facciamo dei grandi salti, passiamo a pagina 141, che, dove il capitolo 17 è il primo capitolo della seconda parte del Leviatano. La prima parte del Leviatano si intitola L'uomo, la seconda parte si intitola Lo Stato. Se Hobbes ritiene che diciamo una corretta concezione dello Stato e di come uno Stato deve essere organizzato e governato sia possibile soltanto a partire dalla conoscenza della natura dell'uomo. Quindi la prima parte è dedicata all'uomo, la seconda parte allo Stato. Qui in questo inizio di questo capitolo, che riguarda appunto la generazione dello Stato, Hobbes, un po' come Baudin, che poi Hobbes è, diciamo, è per definizione anti-aristotelico, diciamo, costruisce il suo discorso come un teorema geometrico, ma in realtà insomma, la sua maniera di ragionare non è così lontana dalla maniera aristotelica che procede per sillogismi e per dimostrazioni. Quindi un po' la Baudin, Hobbes ogni volta, così come Baudin riprende sistematicamente l'incipit dove si definisce lo Stato, si dice che cos'è lo Stato, così anche qui per esempio Hobbes riprende e riassume quanto ha già detto, e quindi ci dice, questo primo capoverso ci dice diciamo che, dato che la condizione naturale dell'essere umano, che è il titolo del tredicesimo capitolo sullo stato in natura, la condizione naturale dell'essere umano è quella di una paura, di un terrore permanente della morte nel mezzo di un conflitto insanabile di ogni uomo come ogni altro uomo, le facoltà razionali dell'essere umano, e in particolare la prima delle leggi di natura, che non sono le leggi di natura della tradizione medievale e di Baudin, cioè leggi di natura sono l'espressione di leggi divine nell'ambito di un ordine cosmologico, eccetera, eccetera, ma sono quelle regole prudenziali, così le chiama Hobbes, che sono proprie della natura dell'uomo. Allora, se l'essere umano diciamo, si trova in una condizione invivibile, in uno stato di natura che, dice Hobbes, è brutish, tremendo e soprattutto è dominato dalla paura della morte, lo stesso istinto di autoconservazione, la stessa paura della morte nella forma di un istinto, diciamo pure, della passione dell'autoconservazione, che però in questo caso è razionale, no? Induce gli esseri umani a cercare, dice Hobbes, con ogni mezzo possibile la pace, laddove sia possibile a cercare la pace. E quindi, come dice qui, la causa finale o il fine o il disegno degli uomini è la previdente preoccupazione della propria conservazione e di una vita perciò più soddisfatta, cioè a dire di trarsi fuori da quella miserabile condizione di guerra, quella dello stato di natura, che è un effetto necessario delle passioni naturali degli uomini. Allora, tutto poi il discorso di Hobbes, diciamo, a differenza di Baudin, è contro tutta una tradizione di pensiero, chiamiamolo teleologico, no? È quello di, attraverso la creazione artificiale dello Stato che nasce dal patto, di neutralizzare la natura dell'uomo, la natura dell'uomo che è di per sé fonte di guerra, di calamità, di disastri, eccetera, eccetera, per creare artificialmente un mondo nuovo, quello del sovrano Leviatano, dove, diciamo, l'uomo, chiamiamolo così, l'uomo nuovo, cittadino suddito del Leviatano, ha rinunciato ai suoi diritti naturali, cioè alla sua natura, obbedisce alla legge del sovrano e obbedisce a una legge del sovrano che stabilisce ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Criterio della giustizia e dell'ingiustizia che non esiste nello stato di natura. Stato di natura è concepito un po' come un universo atomista alla Democrito, no? Di corpi in movimenti che si muovono anche secondo traiettorie casuali, quindi si scontrano, e quindi l'unico criterio è quello del piacere, del dolore, no? È una filosofia atomistico epicurea. E questo, e anche in questo è evidente la differenza tra diciamo l'idea obesiana della giustizia e dell'ingiustizia, che possono essere soltanto il risultato dell'artificio dello Stato, rispetto all'idea bodiniana del governo giusto. Idea bodiniana del governo giusto, e questo non l'ho detto perché abbiamo saltato, si rifà ad Agostino. L'ho detto, però. Sì, hai accennato, sì. E si rifà in particolare a un celebre brano del quarto capitolo del quarto libro del De Civitate Dei di Agostino, dove, e poi Baudelaire lo riprende, lo romanza un po', ma insomma la situazione è questa: un pirata incontra l'imperatore Alessandro Magno, no? E lì insomma si avvia un dialogo. E il pirata dice ad Alessandro Magno, insomma, in fondo ti dai tanta importanza, per di più questa importanza ti viene riconosciuta in quanto sovrano legittimo, ma qual è la differenza tra di noi? Che tu comandi una grande flotta, io comando soltanto una nave. E lì è un discorso anche in Agostino estremamente ambiguo, ma molto interessante, perché profila la prospettiva del cosiddetto Kelsen, tutto quel discorso lì, insomma, profila il discorso antitetico a quello del diritto naturale, no? No, è un'altra parola, insomma, poi mi verrà in mente, purtroppo, vabbè. Insomma, dove si dice il problema non è affatto quello del governo giusto, e cioè di un governo che rispecchi le leggi di natura, il diritto naturale, e quindi che distingua ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, ma il problema è che il potere legittimo e riconosciuto è semplicemente il nudo potere di chi ha la forza. È la stessa cosa che dice che il sofista Trasimaco, discutendo con Socrate e Platone, dice nella Repubblica, no? Laddove sostiene che la giustizia è semplicemente l'interesse del più forte. Adesso arrivo alla conclusione. Sì. Quanto, ancora no, 5 no, minuti. Soprattutto per te, noi figurati che siamo. Ma non lo so se voi siate così felici. No, siamo felici. Vabbè, passiamo a pagina 142 in fondo. Allora, Hobbes, dopo aver appunto profilato questo scenario apocalittico dello stato di natura e della guerra di tutti contro tutti, di una vita invivibile, dell'autodistruzione del genere umano, arriva alla conclusione, ultimo capoverso, che l'unico modo che bisogna è creare un potere comune, cioè bisogna creare il Leviatano. E qual è l'unico modo di creare questo Leviatano, cioè di erigere un potere comune? Qui queste, diciamo, questi... queste poche righe, queste quattro righe, sono a loro volta un condensato di un intero capitolo, che è bellissimo, che è il capitolo sedicesimo del Leviatano, no? Cioè quello precedente, capitolo sedicesimo, che è famoso, che si chiama Persone, Autori, come si chiama? Persone, Autori, scusate. Persone, Autori e Cose. Persone, autori e cose impersonate. Ed è il famoso capitolo, forse uno, come dire, dei luoghi più interessanti di tutta quest'opera di Hobbes, perché in questo capitolo Hobbes inventa, proprio una, è una pura invenzione, inventa la rappresentanza intesa in senso moderno. E qui veramente, come dire, qui sì, si può parlare di modernità. Questa è vera modernità. E con questo capitolo e col marchingegno di quello che Hobbes chiama l'impersonare, il dar corpo alla persona, l'agire in rappresentanza di altri attraverso il patto, Hobbes supera tutta una tradizione medievale di cui è parte Baudin, dove il concetto di rappresentanza non c'è l'idea che qualcuno possa rappresentare altri essendo completamente diverso da questi altri. Nel caso dello Stato Leviatano, questo qualcuno è la persona giuridica astratta dello Stato nato dal patto, che ha trasferito in sé attraverso il patto le persone fisiche, le singole persone fisiche degli uomini veri contraenti del patto, quindi una vera metamorfosi. E nel Medioevo la forma di pseudo rappresentanza che è in uso e che è prevista può essere ben descritta dalla formula credo canonista, che dice quod omnes tangit ab omnibus debet approbari, ciò che riguarda tutti da tutti deve essere approvato, che è come dire qui non è che si può passare da una comunità estesa di soggetti e poi rappresentare la volontà di questa pluralità, Hobbes direbbe, di questa moltitudine di soggetti attraverso un loro rappresentante. E questo è questa situazione è presente in tutta anche la tradizione teologica cristiano medievale, no? Dove il corpo sacro di Cristo, il corpo sacro del pontefice, il corpo sacro del monarca non sono rappresentabili, possono essere sostituiti, non possono essere impersonati da un'altra entità, possono essere sostituiti da un altro corpo, cioè è tutto un movimento di corpi fisici, no? Il primo passo in avanti rilevante che viene fatto rispetto a questa difficoltà della rappresentanza e della rappresentazione è fatta dalla famosa teoria elisabettiana dei due corpi del re, ripresa nel famoso libro di Kantorowicz, no? Che è un'immagine bellissima, e allora che poi risponde allo slogan, alla formula ancora in uso nella monarchia inglese, il re è morto, vive il re, no? Cioè il re ha due corpi, uno è fisico e l'altro è politico, quando muore il re, il corpo fisico è morto, ma il re, cioè la sovranità non è morta, perché continua attraverso l'altro corpo che è il corpo politico. Vabbè, scusate, io. No, è che faccio troppe digressioni. No, troppe digressioni. Allora, qui concludo. Ecco, dicevo, in questo pezzo, in queste poche righe, Hobbes condensa tutto quello che dice nel capitolo precedente e spiega il dispositivo della rappresentanza intesa in senso moderno attraverso un trasferimento. Leggiamo qui, dice, quarta riga dell'ultimo capoverso, l'unico modo di erigere un potere comune, pagina 142, l'unico modo di erigere un potere comune è quello di trasferire tutto il loro potere e tutta la loro forza degli individui contraenti in carne ed ossa coinvolti nel patto, a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini, non fa differenza, il che è quanto dire che si incarica un solo uomo, una sola assemblea di uomini, di dar corpo alla loro persona, alla loro persona e alle loro persone, alle tante persone di una moltitudine anarchica, eccetera, eccetera, che ciascuno riconosce e ammette, ciascun individuo fisico realmente vivente, fisicamente vivente, ammette di essere l'autore di ogni azione compiuta o fatta compiere, relativamente alle cose che concernono la pace e la sicurezza, da colui che dà corpo alla loro persona. Qui poi, tra l'altro, questo passaggio del trasferimento che crea, diciamo, in cui consiste la rappresentanza, richiama molto da vicino Rousseau, anche se poi Rousseau, attraverso il dispositivo della volontà generale, arriva alla conclusione opposta, no? E cioè che il sovrano non è il Leviatano, ma il sovrano è la volontà generale. Però qui c'è la stessa, come dire, lo stesso nel trasferimento, c'è lo stesso investimento della volontà individuale di ciascun contraente e lo stesso investimento dell'identità, di un'identità profonda, per cui ciascun individuo contraente attraverso il patto realizza la sua vera identità e la sua vera volontà, che non può realizzare nel bellum omnium contra omnes dello stato di natura, che può realizzare soltanto nell'ordine e nella pace del Leviatano. E poi, vabbè, leggo il passo successivo, che dice: questo è più che consenso o concordia. Appunto, non si sono solo messi d'accordo per pattuire una situazione, un rimedio, un compromesso. È una reale unità. Nasce un'entità nuova di tutti loro in una sola e stessa persona. Pensate, è come un miracolo, il miracolo di una metamorfosi. Realizzata mediante il patto di ciascuno con tutti gli altri, e Hobbes in altri passi spiegherà che questo patto orizzontale di ciascun contraente con tutti gli altri contraenti deve essere simultaneo, per evitare che qualcuno cambi idea, ecco, perché il patto consiste nella cessione dei propri diritti, no? E quindi do autorizzazione in maniera tale che è come se ciascuno dicesse a ciascun altro: do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare me stesso, cioè la sovranità che io per mia natura ho su me stesso, la sovranità è la libertà naturale, do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare a me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu, nella stessa maniera, e qui c'è la simultaneità e la reciprocità, gli cede il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni. Fatto ciò, la moltitudine, così unita in una sola persona, si chiama Stato. In latino, civitas. Vedete che questo Stato e la sua sovranità sono ben diversi da quella che spero sia emersa da quanto si è detto prima in merito a Baudin. E questa, e ho finito, la generazione di quel grande Leviatano, o piuttosto di quel Dio mortale, non a caso Dio mortale in corsivo, al quale dobbiamo sotto il Dio mortale la nostra pace e la nostra difesa. Ecco. Credo che molti di voi sappiano che il Leviatano è un mostro biblico, no? è un mostro biblico, è un mostro, quindi è mostruoso, fa paura, incute terrore, deve incutere terrore, però, e quindi è definito come un dio, ma è un dio mortale, perché è razionalmente, artificialmente costruito così come si costruisce una macchina. E così come è stato costruito, può essere smontato, perché diciamo, l'idea obesiana dello stato di natura non è quella di un'età dell'oro in cui gli uomini vivevano liberi e selvaggi e felici, ma è l'idea della continua possibilità di una ricaduta dello stato di natura. E quindi, cioè, la guerra civile, l'anarchia, la fine del collasso dello Stato, eccetera, eccetera. Io avrei finito.